Anne Suyen, scrittrice e medica sino inglese, autrice del bestseller A Many Splendid Things, tradotto in Italia con il titolo più commerciale L'amore è una cosa meravigliosa, è stata una longeva e prolifica professionista, viaggiatrice e osservatrice, oltre che scrittrice. La fama del romanzo è stata sicuramente facilitata dall'omonimo film del 1955, per cui l'interprete Jennifer Jones fu candidata all'Oscar, e dal rispettivo brano musicale che fruttò a Nat King Cole l'ambito premio, divenendo una delle canzoni più famose nella storia della musica. La scuola delle donne propone la lettura proprio del romanzo, che rispetto al film, totalmente incentrato sulla storia sentimentale, tra l'altro autobiografica, tra la medica euroasiatica Han Suyen e un giornalista americano, come spesso accade, purtroppo banalizza e riduce al minimo l'importantissimo contesto storico e la vicenda professionale della donna protagonista. Lo abbiamo visto accadere anche, per esempio, alla produzione televisiva italiana su Maria Montessori. La storia d'amore, quando si tratta di parlare di una donna, fa più audience. Ciò che invece nel romanzo è interessante è il racconto autobiografico della sua vicenda di medica, una professione che negli anni 50 sicuramente non era usuale per una donna, soprattutto di sangue misto. L'impero britannico ha liberato solo nominalmente l'Asia, che tuttavia continua ad essere una sua colonia commerciale. E ha lasciato dietro di sé milioni di figlie e figli di sangue misto, ossia nati da padre europeo e madre asiatica o viceversa. Il mondo letterario e cinematografico offre alcune belle storie a riguardo, per esempio la novella Bhowani Junction di John Masters, da cui il film Sangue Misto, dove Ava Gardner interpretò la tenente anglo-indiana Victoria Jones alle prese con la ricerca della sua identità, inglese o indiana. O il film Australia, dedicato alle generazioni rubate, ossia sangue misto, dove il ragazzino protagonista Nalla lamenta appunto il fatto di non appartenere né agli europei né agli aborigeni per il colore chiaro della sua pelle scura. In tutti questi casi si evidenzia il dramma di questi esseri umani che non sentono di appartenere a nessuna comunità e che si percepiscono esclusi e disprezzati, tanto dagli europei, con il loro senso di superiorità, quanto dagli asiatici che si sentono inferiori agli europei, ma superiori a loro, e li trattano con arroganza. Tornando ad Han Suyen, nacque a Pechino all'inizio del Novecento da madre europea e padre cinese col nome di Elizabeth Chow. A Pechino cominciò gli studi di medicina, viaggiò in seguito a lungo in Europa e si laureò a Londra. Suo marito fu ucciso durante la lotta civile scoppiata in Cina dopo la rivoluzione comunista e lei rimase sola a Londra con la sua bambina. La borsa di studio ottenuta non bastava a mantenerle entrambe, così lei assunse un impiego. Ma il richiamo della Cina era forte e Suyen decise di ritornarvi e di essere cinese, adottando il cognome Han in omaggio all'etnia dominante in Cina. Inizialmente entusiasta della rivoluzione, ingannata come molti altri dall'apparente fine della tirannia feudale, Suyen si accorse presto e condannò la nuova crudele tirannia con cui gli ufficiali cinesi pretendevano di sostituire la vecchia. Come Rosa Luxemburg, che 20 anni prima aveva preso le distanze in Germania e condannato la dittatura stalinista, la quale manteneva in catene il popolo a vantaggio dei pochi gerarchi comunisti sostituitisi agli aristocratici dello zar. La differenza tra le due è che la Luxemburg fu assassinata per questo, mentre la Han riuscì a comportarsi in modo abbastanza diplomatico da non suscitare rappresaglie, sebbene la Cina si sia dimostrata tiepida alla sua morte e non abbia quasi dato notizia. Il romanzo però non è ambientato in Cina, bensì a Hong Kong, dove Suyen del romanzo vive e lavora come medica, proprio come Suyen, autrice, visse e lavorò in Malesia e a Singapore. Hong Kong è uno stato indipendente, ma in realtà assoggettato all'Inghilterra secondo la vecchia modalità coloniale imperialista. Suyen osserva, analizza e descrive le due realtà con grande lucidità, dando un quadro storico e politico scritto in tempo reale, poiché visse nella stessa epoca che descrive e poiché la protagonista del romanzo è in realtà lei stessa. Hansu Yen viaggiò molto e scrisse sempre con taglio autobiografico tanto del suo lavoro quanto della sua permanenza in diversi paesi dell'Asia, tra cui per esempio il Nepal, che descrisse nel suo romanzo La montagna è giovane. Morì in Svizzera, quasi centenaria. Per sua fortuna o astuzia, le molte avventure che visse finirono sempre bene per lei. La scuola delle donne non è interessata alle simpatie politiche di Hansu Yen, ma alla sua vita straordinariamente emancipata e indipendente, che la vide lavorare in ospedale come medica, in un'epoca in cui il ruolo era tradizionalmente maschile e le donne avevano accesso agli ospedali solo come infermiere, e contemporaneamente scrivere la sua vita in forma di romanzo, nei ritagli di tempo, affinché noi possiamo trarre ispirazione dal suo coraggio, intraprendenza e lucidità. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.